oxygen. So do two crows, cause when you die, I swear I'll be leaving by your side. Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Questa sigla ravviva sempre un po' l'atmosfera e partiamo con una marcia in più oppure con anche in folle fa lo stesso. Parliamo di cultura pop, parliamo di Crazy Nena, Coraggio fatti stirare con Serena Romeo. Ciao a tutti. Serena, io ti conosco da un po' di anni per varie frequentazioni, principalmente digitali, e poi tu sei un ex allieva della Scuola Internazionale di Comics. Sì, esattamente. E adesso hai raccolto in volume questo, le tue strisce, parecchi anni di strisce, che è questa Crazy Nena, che è sulla pagina di Facebook di Sono Solo Nuvolette è apparso scritto che cogli il lato epico e tragicomico della vita quotidiana. Sì. Ti ci riconosci? Nella parte tragicomica sicuramente, okay. Sì. Epico nel senso oramai tragicomico, l'epico involontario. La striscia di questa settimana, che è stata rimbalzata sul Facebook di Sono Solo Nuvolette, parla di una montagna di panni da stirare attraverso cui la protagonista si avventura e scopre qualcosa di particolare. Ma Crazy Nena sei ancora tu oppure no? Allora, Crazy Nena ero io, poi nel corso del tempo ho aggiunto particolari e piano piano ha preso vita il lato fumettistico e degenerato, per cui Nena adesso è un elemento a sé che ha una vita sempre più folle, sempre più incasinata e sempre più umoristica, per okay. Cui siamo due individui al momento separati. Lei si diverte più di me, credo. Sì, però forse dialogare con lo scarafaggio gigante e cose del genere che succedono, forse sì, si diverte, ne esce viva. Lo scarafaggio è frutto di un'esperienza pre-matrimoniale, perché nella mia vecchia camera ho avuto un'esperienza di scarafaggini. Li ho odiati talmente tanto che poi, quando è stata ora di fare qualcosa di buffo, ne ho creato uno e gli ho dato okay. Vita. Ogni nemesi poi rimane parte di ogni autore della creatività e alimenta la creatività. E quindi nasce come una striscia autobiografica, immagino, Crazy Nena. Sì, inizialmente sì, perché una volta sposata ho iniziato a scarabocchiare, ero ad un campeggio con mio marito in vacanza, ho iniziato a fare degli schizzi, è venuta la mia versione a pupazzetto. Ok. E inizialmente avevo studiato illustrazione, quindi avevo avuto una mezza idea di fare delle illustrazioni, e poi no, cioè il mio amore per le strisce, pian piano ho scritto due testi, poi tre testi, poi ho cominciato ad abbozzare. Ed è venuto fuori questo personaggio così ricco, per cui okay. Ha preso vita quasi ed da sola. Ed è cresciuto pian piano, tu ti sei data anche un ritmo, adesso è settimanale, esce settimanale sulla pagina Facebook, sì. Ma prima è stata anche più frequente. Sì, ho iniziato, addirittura c'è stato un periodo in cui ne facevo tre a settimana, però poi ho preferito, per poter fare anche altre cose, lavorare di più ai testi, fare le cose con calma e uscire una sola volta a settimana per poter dare qualcosa di più ricco. Ok, e ok. Una è interessante vedere questa specie di gli appassionati di fumetti direbbero un omnibus. È un omnibus di tue strisce e si evolve pian piano, il segno si evolve pian piano. Sì, sì, sì, è un classico. All'inizio, difatti, quest'estate, per poter pubblicare il libro, ho colorato tutto. Inizialmente era uscito tanto tempo fa un primo volume in bianco e nero con alcune okay. strisce, non tante. Ho deciso di fare questa raccolta colori, quindi ho iniziato a colorare quelle vecchie. Riguardare i tuoi lavori, cioè quando hai un tratto definito, riguardare le prime è comunque un colpo al cuore, perché ti verrebbe da rimetterci mano, poi però pensi no, quella ero io, sì. E quindi teniamola, però esatto. È veramente cambiata tanto. Beh, c'è un percorso, è interessante vedere tutto insieme, però anche lì, anche i Peanuts che citiamo spesso come uno delle pietre miliari del fumetto della striscia, se vai a vedere le strisce più vecchie di Schulz è un po' diverso le il segno. Cioè ho il tomo, sai, quelli giganti, esatto. I se primi tu guardi erano i primi completamente diversi, esatto. Poi Snoopy era non inguardabile ma completamente diverso per il nostro occhio, per l'occhio di quelli che sono i Peanuts definitivi è diverso, perché c'era una ricerca in corso d'opera di un segno, di una sintesi. Penso che come sintesi nessun altro, più di Schulz ci sono gli ometti stecco, sì, che esatto. Però non hanno l'espressività dei personaggi di Schulz. E nel tuo caso anche sei partita da un disegno più ricco, è meno stilizzato oppure stilizzato in maniera diversa? Cosa diresti? Ma ho iniziato, sì, c'erano più particolari, era un po' più pesante come segno, perché cercavo di guardare i grandi, cercavo di studiare quelli che erano quelli bravi, cioè da Bill Watterson piuttosto che Jim Davis, e quindi provavo. Però poi pian piano Nena si è alleggerita, ci sono meno neri, i tratti sono più sottili, il salto grosso è stato passare poi all'inchiostrazione digitale, perché è cambiato tutto all'inizio. Poi anche in generale si vede molto la parte a mano, perché io sono storta, non riesco a fare nulla, le tiro le righe, comunque non vengono mai perfettamente dritte. E beh, è artista, licenza d'artista. Mamma mia, per cui pian piano migliorando ho visto che dando un minimo di criterio, poi ho anche alleggerito il tratto. Okay. E adesso è più leggera, è più completa, la sento più adatta adesso. No, ma infatti ha una forte personalità. La difficoltà della striscia umoristica è quasi sempre trovare una riconoscibilità dei personaggi che sia, a parte la riconoscibilità dei personaggi da una striscia all'altra, ma anche che il segno sia particolare. E in questo momento penso che si possa dire, qualcuno che vede una tua striscia disegnata così, questa è Serena Romeo. Direi che è un buon, per un artista è tutt'altro che una banalità. Sì, sì, perché riconoscono il segno classico, però vedono il mio segno classico, esatto. Quindi bene o male. Comunque notavo che quello che è cambiato di più nel corso degli anni è stato Roger, che all'inizio era completamente diverso. Ho sempre fatto fatica a disegnarlo con le proporzioni, mi veniva troppo alto, mi veniva troppo... E adesso finalmente Roger è Roger. All'inizio, povero Cristo, chiaramente l'ho cambiato in miliardi di modi diversi, e era più alto, era più magro, era più... Per cui non era mai lo stesso. Nena si evolveva, lui poverino cambiava, e quindi se vedi qui è più lungo. Adesso il Roger ha le gambe più corte, okay. I piedi più piccoli, è più proporzionato e più fumettistico. Okay. All'inizio era un po' un come viene, poverino, e mi faceva un po' pena. Ma anche Roger, l'ispirazione è tuo marito, giusto? Sì, ok, sì, cioè sì. Proprio all'inizio i due personaggi siete tu e tuo marito, e poi pian piano esatto. Siano diventati... Roger ha assunto indipendenza rispetto a tuo marito più di quanto Nena l'abbia presa da te, ognuno per sé? No, ognuno per sé. E poi in realtà se dobbiamo proprio dirla tutta, io... Scusa, stavo facendo il fenomeno, ti dicevo dove parlare, e poi alla fine io parlavo il lato sbagliato. Terribile padrone di casa, terribile padrone di casa. Per fortuna c'è Alessandro in regia che fa caso a queste cose. Grazie. E dicevamo, no, sono cambiati entrambi i personaggi, hanno assunto entrambi i personaggi una vita propria. Esatto. Lui inizialmente ne parlavo poco, perché comunque essendo biografico un po' ero titubante all'idea. Sai? Lui come ha reagito le prime volte a vedersi il ritratto? È stata bella. La prima volta che è uscito il libro in bianco e nero, okay, che era edito da Arpanet, siamo okay. andati alla presentazione, entra una persona, gli stringe la mano e gli dice, tu devi essere Roger. Per cui lui un po' c'è rimasto. C'è questa accettazione del fatto che tua moglie fa questo lavoro e che tu sei un suo personaggio. Ok, qualcosa a cui si passa attraverso e bisogna accettare. Tu hai presentato Luca Comics quest'anno, questo volume. E le cose più strane che ti hanno detto a riguardo, chi scopriva, oppure se ti capitava di incontrare qualche tuo lettore affezionato? Allora, sono arrivati i lettori affezionati, non hanno detto nulla di particolare strano, di particolarmente strano quelli nuovi, però mi sono piaciuti quelli che hanno comprato, perché venivano a coppie. Ok. E magari lui sfogliava il libro e diceva, questo te lo devo assolutamente comprare perché sei tu. Per cui ho capito di aver più o meno centrato il bersaglio, e di che ci sono altre coppie che si rivedono nel esatto, nostro fumetto. Diciamolo che probabilmente le epiche tragedie e difficoltà della vita sono anche molto casalinghe. C'è tutto il mondo casalingo, poi di per sé si intitola Coraggio fatti stirare. Sì, perché la nemesi è la stiratura. Cioè Nena è veramente, odia stirare, non è molto brava, quindi all'inizio fa dei disastri allucinanti. Si rivolge a saggi Jedi, mastri della stiratura, per cui ogni volta, questa settimana ci sarà comunque sempre l'argomento stiratura, perché alla fine quello è il suo tallone d'Achille e quella è la cosa che le crea più problemi di tutti. Ok, e quindi di qui la scelta di usare questa parafrasi di Coraggio fatti ammazzare invece in senso tragicomico nel contestualizzare gli orrori domestici. C'è qualche orrore domestico che ha preso più spazio nel corso degli anni oltre alla stiratura? Inizialmente la lavatrice aveva più spazio. Ok. Perché comunque quando vai a vivere da solo con il tuo partner per la prima volta e vivevi a casa abbastanza coccolato e non ti facevano praticamente fare nulla, ti ritrovi poi dal nulla a fare cose che non sapevi. Okay. Per cui ho trasferito questa mia incapacità, o comunque insomma inizi a livello domestico anche nella lavatrice. Uh-huh. La mia tra l'altro aveva un grande oblò proprio lei di suo. Uh-huh. Per cui mi ha dato l'ispirazione di questa Vilma con i denti, un bestione allucinante che ti distrugge le camicie se non la nutri con la carne. Okay. E quant'altro. Ok, ma visto che da queste parti c'è... parliamo sempre dell'argomento nerd, dell'essere nerd. C'è un filtro nerd nel raccontare queste cose? O tu non ti senti nerd? Non mi sento nerd, okay. Però probabilmente sotto sotto, perché da quello che racconto ogni tanto emerge qualcosa, per cui... Ma vedo un polpo che diventa una specie di grande Cthulhu, qualcosina. Sono un nerd inconsapevole, probabilmente. Nerd tra le righe. Esatto. E ti sta dando soddisfazione questa versione a volume... Sì, è stata molto ben curata, ci abbiamo lavorato tanto, è stata un'estate intensa. Difatti tutti andavano in vacanza e io no, per cui è stato faticoso, ma mi è piaciuto, è stata una prova, insomma. Mi sono messa lì, ho trasformato il tutto, perché comunque non è un grande lavoro. Da quando ho cominciato ci ho messo anima e corpo negli anni, anche se insomma nei ritagli e quant'altro, però... A un certo punto ho voluto renderle merito e farmi un po' di mazzo, come si suol dire, dandole un po' di fatica a colori e, okay, trasformandola in un volume di qualità. Esatto, poi tra l'altro ci sono un po' di cure, molto, molto da volume francese, piccole illustrazioni a cima della pagina, anche il numero di pagina, alla forma della sagoma di... ma se ci fai Nena. Caso, comunque il maglioncino di Nena è un omaggio a Gaston Lagaffe, quindi bene o male il mio amore per il l'umoristico francese... Okay. Comunque c'è sempre stato e non ho mai voluto nasconderlo. Adesso ogni tanto l'avesto un po' più da donna per esigenze di copione, ma il maglioncino inizialmente era un must. Ok, ecco. Ok, certo, quindi decisamente il fumetto francese tra le tue influenze è ciò che dà una particolarità anche al segno. Sì, perché comunque bene o male io leggo queste cose, cioè leggo comic strip americane, leggo umoristico francese, per cui è inevitabile che io mischi entrambe le cose, anche perché mi piacciono e tendo inevitabilmente a farle mie. Alla fine Nena è una cosa mia, io sono italiana, non ho né l'umoristico americano nelle vene né il francese. Il mio viene fuori così. Ok, beh, di per sé si mescolano una serie di elementi che piacciono e la creatività, nessuno inventa niente perché tutto è già stato relativamente inventato, ma si uniscono una serie di elementi e si crea qualcosa di nuovo, come in questo caso Crazy Nena. Continuiamo a parlarne poi su queste frequenze digitali dopo la prima canzone, che è una tamarrata pazzesca, però per qualche motivo volevo partire con cantanti donne, perché per qualche motivo mi sono accorto che in playlist non ne ho mai messe granché. Questo è un pezzo molto, come si dice, anni 2000, 2000, non è 90s, cioè gli anni 2000, che purtroppo non sono così vicini. Il 2000 era 15 anni fa, rendiamocene conto. E quindi c'era questa cantantina qua che faceva l'adolescente, fa ancora l'adolescente adesso, credo, boh, non so se sia cresciuta oppure no. Lo so che storcerà il naso qualcuno, però l'ho anche suonato questo pezzo e mi divertivo anche, quindi Avril Lavigne, Skater Boy. She Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E sì, ci siamo concessi questa piccola stupidaggine, ma molto pomeridiana, giusto Serena? Ci sta. Ok. Serena Romeo, autrice completa, che questo fa molto figo. Autrice completo fa figo, sì. Esatto, che in gergo tecnico è semplicemente chi si occupa sia dei testi che dei disegni. E a maggior ragione in questo caso una striscia tanto è fatto da cosa ci metti nei testi quanto è fatto dal come costruisci la sequenza dell'immagine e come racconti i personaggi. Sì, la parte testuale nel mio caso è quella fondamentale, cioè ci lavoro molto di più in proporzione, nel senso che comunque se la battuta non rende puoi disegnare quello che vuoi. Esatto. Ma la cosa bella della striscia in questo caso è in quattro tempi, perché sono quattro vignette che alla quarta tu devi dire la battuta, è finito, cioè quella è, deve starci. Sì, sì, è una sua grammatica totale. E tra l'altro nell'esplosione dei webcomics, ci ragionavamo prima, non tutti gli autori di webcomic che sono emersi in realtà lavorano per strisce. Mm-mm. Lo stesso Don Alemanno in realtà fa delle tavole o delle illustrazioni con vignette, per dire uno molto seguito. Io trovo che siano vignette più che... Lui alla fine è lui è un autore satirico più che un fumettista. Esattamente. Boh, sì, io che tanto ho fatto storcere il naso a alcuni ospiti da queste parti, perché è personaggio molto seguito ma non apprezzato da molti fumettisti, anche perché di per sé ha molto poco di fumettista. Ma sì, cioè, perché alla fine lui è un comunicatore. Poi per carità, lui ha le sue vignette e alla fine fa la battuta, però... non credo che si possa definire proprio un fumetto fatto e finito. Poi... Esatto, ma poi di per sé non sapresti contestualizzare Sio senza su YouTube le canzoni tradotte con esatto, Google cioè, Translate. Lui è tutto. È esatto. C'è tutta una serie di cose che, a parte il fatto che dovevano emergere probabilmente, perché con quel linguaggio lì, creando del linguaggio, avendo il pubblico della rete, scommettiamo che Alessandro, che è giovine, sa chi è Sio. Quello di... Sì, ciaone, l'iPhone che è più grosso. Stiamo coinvolgendo Alessandro dalla regia, non mi tira oggetti, quindi mi asseconda come al solito. Vedi che sto ragazzo, io sono sempre lì che gli rompo le scatole, gli dico che deve leggere cose. Lui non mi insulta e da ninja sta diventando anche samurai, nel senso come spirito zen. L'uomo alla regia è sempre molto importante comunque Alessandro, è un piacere averlo qui. Oramai in pianta stabile, sei il mio regista fisso. Quindi abbiamo anche scoperto, ma sto deragliando completamente, è anche la sigla di Mos Eisley della sigla, è anche di questa trasmissione, è anche In avanti un altro, giusto? Ok, che non so cosa sia, tu sai cos'è Avanti un altro? Non ho idea. No, e siamo nerd, non guardiamo la televisione. capita queste cose qua, Canale 5 cos'è? No, Canale 5 proprio non la guardo. Bonolis? Non sappiamo, noi sappiamo, chiedici di Star Wars, chiedici di fumetto francese, soprattutto Serena Romeo, il piacere oggi è anche con te di chiacchierare un po' di fumetto francese, anche brevemente, non è che non ti interrogo, però troppo spesso quando si parla di fumetto ci si ferma a Topolino oppure a Tex, oppure addirittura si sbracca sui cartoni animati, dice ah belli i fumetti, cos'era? Le principesse Disney. Sì, fanno anche i fumetti le principesse Disney, però parte dal cinema di animazione della Walt Disney, è cinema di animazione, non fumetto. C'è tutta una serie di fraintesi legati al mondo di tutto ciò che è disegnato, intanto la confusione tra animazione e fumetto, e poi non sempre si parla di tante ricchezze delle scuole nazionali come il fumetto francese. Abbiamo accennato fumetto fantastico, ma il fumetto umoristico francese, autore, personaggio di punta, Asterix. Sì. O si dice, o noi diciamo Asterix, però per i francesi io credo dovresti che dire sia Asterix. Asterix. Senza... se dovessi raccontare cos'è Asterix per te come lettrice? Beh, allora, è particolare perché comunque mi fa sorridere il fatto che... Asterix per me è l'essere bambina, perché ho cominciato a leggerlo veramente da tanto. Allora, quindi, intanto c'è sicuramente il legame affettivo. Il legame tra virgolette storico, perché ho studiato archeologia, quindi mi fa molto ridere leggere di Giulio Cesare all'interno di queste circostanze, di vedere i galli e quindi... E poi la cosa che veramente mi piace più è il tratto e il veicolo narrativo, cioè il modo che hanno di arrivare dall'inizio alla fine della tavola, mm-hmm. è tutto completo, è un qualcosa che da noi c'è, ma è diverso. E poi la loro concezione di umoristica è completamente diversa rispetto alla nostra. Non tanto Asterix quanto, ad esempio, io lo adoro, però quello che amo veramente di più è Franken. Per cui ho letto Gaston Lagaffe, quello che mi piace, che ho trasposto anche nel mio di fumetto, è il fatto che ci siano molte tavole autoconclusive. Cioè in Francia funziona molto così l'umoristico: parti dall'inizio di una tavola, quindi una pagina, e alla fine hai un'intera pagina con un racconto che nel loro caso fa anche ridere. Sì. Anche se non sono d'accordo sul fatto che se riesci a far ridere in Francia non fa ridere in Italia e viceversa. Dicono che l'umorismo sia diverso. Io l'umorismo francese lo apprezzo veramente moltissimo, mi fa molto ridere. Potresti avere tu un gusto evoluto in questa direzione? Non saprei. Potrebbe essere questo. Boh, sì, una delle regole che dicono gli sceneggiatori americani è che humor do not translate, non si traduce così facilmente. Però non è detto, perché di per sé non ci sarebbero così tanti estimatori di umorismo francese dei Monty Python in Italia. È anche questione di gusto, di affinamento del gusto, di varietà. Sì. E parlavamo dell'evoluzione di Crazy Nena, della tua striscia nel segno. Anche Asterix, se vai a vedere i primi volumi, Uderzo disegnava in maniera molto diversa. Molto, molto diversa. E questo mi fa ben sperare, cioè potrei quasi migliorare ancora. Io trovo che ci siano dei margini notevoli, per cui tutte le volte guardi comunque le tue tavole e dici quanti errori. Quindi alla fine... Sei così tanto autocritica, sì? Sì, sono pignolissima, cioè un qualcosa di pazzesco. Cioè. Hanno dovuto trattenerti, mentre lavoravate a questo progetto l'avresti ridisegnato? Ridisegnato non lo so, perché comunque avendo lavorato a questo omnibus, mettiamola così, molte tavole erano già fatte. Sì. Ho dovuto risistemarne alcune. Il problema è che dovevo ridisegnarle mantenendomi un pochino vicina alle cose del passato. Per cui mi sono anche frenata per non farla nella nuova. Okay. E allora è stato un po' un freno a mano per dare continuità, no, al volume. Un bel esercizio di analisi di come si è evoluto il tuo segno, direi. Le prime comunque le avrei rifatte volentieri. A livello grafico, le battute mi piacevano molto, ma a livello grafico le prime le avrei prese, ridisegnate completamente. Non tanto la 1 che mi piace, ma dalla 2 alla 5, le prime erano veramente completamente diverse e le guardo proprio con quell'aria da no, videofuoco. Per cui è stato un esercizio controllarsi e dire no, le tengo così, fanno parte della mia storia, non le cambiamo. Ma infatti, poi sai, quanto guardarsi indietro, voler rifare tutto, non sei l'unica. George Lucas ha continuato a rifare Star Wars per anni finché non l'ha venduto. E mi ricordo i primi numeri di Martin Mister, la prima ristampa di Martin Mister, in cui c'erano parecchi elementi riveduti e corretti, che mi aveva colpito in realtà dal lettore all'epoca, questa cosa che Castelli volesse aggiustare, modificare. Ma perché il lettore la vive in un modo, chi l'ha realizzata e stava raccontando anche a livello di immagini una cosa, poi lui cambia, quindi tu la vedi diversamente. Esatto. Ma è un tuo prodotto e quindi lo vorresti ridisegnare. Esatto. Facendolo combaciare con quello che sei in quel momento. Quindi non è solo il lettore che cambia a seconda del momento della vita in cui legge qualcosa, anche l'autore ha maggior ragione. Esatto, esatto. E quindi ho fatto finta di niente, ho detto fa parte della storia, ho chiuso un occhio e sono andata avanti. Vabbè, sei riuscita a disegnare anche con un occhio chiuso. Esatto, il potere del digitale, no? infatti. Ed è cambiato anche la maniera tua di disegnare. Dicevi all'inizio matita e china. All'inizio era tutto poi... a mano, matita e china, tra l'altro con il pennino. E mi faceva molto ridere perché tutti mi dicevano come sei brava a pennello. E quindi mi sono chiesta se stavo inchiostrando bene, perché fondamentalmente se mi confondi vuol dire che forse sto lavorando in un altro modo. Ma perché erano persone non specializzate? No, per cui bene o male ho detto boh, forse schiaccio troppo, non lo so. E quindi pian piano sono passata non ho mai usato i pennarellini, perché il pennino mi dava la possibilità di cambiare il tratto. E poi sono passata direttamente al digitale, inchiostrare in digitale, e adesso sto iniziando anche a disegnare in digitale, pian piano c'è l'evoluzione, almeno per Crazy Nena, che comunque prevede continuità, molte tavole che si ripetono, quindi è più pratico, è più veloce e mi consente di lavorare meglio sul prodotto. Ma non mi sembra, sfogliando il trucco o leggendoti online, il vecchio trucco di Ortolani del duplicare la vignetta, lo usi? Ah, dipende, perché poi comunque devo sempre cambiare qualcosa, non riesco a usare la stessa. Magari mi metto lì, ci paciocco sopra, sopra, ci gioco sopra e vedo se è un espediente narrativo molto forte che lui usa, però non necessariamente si va bene per tutti. Lo usano in tanti, perché comunque lui ha fatto molto a scuola. Io trovo Ortolani sia in Drizzt, come si chiama l'autore di Drizzt? Bigio. Sia in Bigio che anche nello stesso Sio, alcune cose, questa scansione delle vignette. Ma se guardi Jim Davis, ha quasi sempre in molti Garfield c'è la battuta diversa e lo stesso identico Garfield seduto sulla poltrona che guarda la TV, piuttosto che, quindi l'espediente c'è e io non ci riesco, lo guardo e devo farlo un po' diverso perché mi dà l'idea che sia da pigro e allora dico no vabbè, la cambio un pochino, cambiamogli la posizione. Quindi sono sei tutti editor simili di te stessa, esatto. Ti costringi comunque, è più forte di me, dico vabbè non proprio uguale, dai no, ne faccio una nuova un pochino. È molto interessante perché adesso abbiamo tirato in ballo un altro pilastro della cultura pop di cui non si parla mai in termini fumettistici, che è Garfield. Io lo adoro, questo è l'autore Jim Davis, che tra l'altro è un po' un outsider rispetto, si finisce sempre a parlare di Schultz, di Calvin and Hobbes e quasi mai di Jim Davis. Ma credo che sia perché lui è molto più commerciale, perché comunque fa cartoni animati, cioè è in televisione che cartoni animati, c'è un sacco di merchandising, quindi probabilmente è un po' lasciato lì come se fosse, sai, c'è stata una maggiore un maggior utilizzo commerciale del personaggio di Garfield, forse. Ci sono stati anche due film di animazione, però di per sé questo non vuol dire niente, perché è appena uscito il film di animazione 3D dei Peanuts, quindi quelle storie sono fatte anche per essere riraccontate, magari tradendo un po' l'originale. Pazienza, il film dei Peanuts in 3D, se anche può avere qualcosa di diverso, non tradisce, non cambia sicuramente le strisce. E difatti io le strisce le leggo quasi tutte le settimane, ormai è un must, cioè proprio in inglese va benissimo, le sono perfette. Ma stai parlando dei Peanuts o di Jim Davis? No, parlo adesso di Jim Davis. I Peanuts, vabbè, non è che possiamo leggere nulla di nuovo. Ah, perché pubblica ancora? Dove escono in Italia? Io le leggo su Go Comics online, quindi molto comodo, perché te li puoi leggere tutti, puoi partire dalla prima. E quando sei una persona che studia e che comunque studia i migliori, perché comunque devi studiare i migliori. Per lavorare bene, quindi te le puoi leggere anche tutte, ti metti lì, studi la battuta, studi i tempi, studi qualunque cosa e ti godi il personaggio, perché comunque sei un lettore alla fine. Beh, l'espressività di questo gatto obeso, cioè quanti, anche con pochi tratti, però se non fossero le smorfie, le facce che fa Garfield, è pazzesco come riesca a comunicare senza fare assolutamente nulla. Cioè ci sono delle battute in cui lui è sdraiato e non fa assolutamente nulla e ti fa ridere. Esatto. Cambia un sopracciglio, uno. E io aspiro ad una cosa del genere, disegnare niente ma comunicare tutto. È un qualcosa di, ma non per pigrizia, proprio perché è abilità. Sì. È un qualcosa che ti arriva ed è quello, secondo me, fare fumetto umoristico a strisce. È un percorso efficace verso la sintesi, un percorso di sottrazione. Poi proviamo ancora a ragionarci su questo linguaggio. Adesso mettiamo la seconda canzone. Forse un'autoriflessione, forse non lo sappiamo, si intitola What I Am, sempre cantanti femminili, sempre un po' prima, Avril Lavigne era anni 2000, questo siamo tardi anni 90, ho un altro pezzo suonabile perché mi pare che siano quattro accordi, mai suonato perché... Ah sì, lo sentivo in sottofondo, credevo fosse qualcos'altro, invece no, Eddie Brickell, What I Am. I'm not aware of too many things, I know what I know if you know what I mean. Yeah. Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Siamo sempre qui su Radio Archimede, siamo a parlare di fumetto, cultura pop e dintorni, con un fumetto che è Crazy Nena, Coraggio fatti stirare, con l'autrice Serena Romeo. Eccoci. Crazy Nena ha esordito in questo volume, in realtà è dal 2007 che esiste la striscia, esatto, giusto? Esatto, sì. È esordito questo volume che abbiamo battezzato qui come Omnibus, così ci si dà un tono. Però è un omnibus a tutti gli effetti, adesso non è omnibus di per sé, per il fumetto francese è tutto ciò che è una raccolta, noi la chiameremmo raccolta, però omnibus fa più figo, dai. Difatti è una raccolta, ma è solo una, diciamo, una prima parte, perché okay, comunque siamo arrivati, abbiamo deciso di concluderlo cronologicamente perché a un certo punto si aggiunge il personaggio di mia figlia, che per carità essendo di Crazy Nena è una cosa a sé, quindi è una bambina principalmente, molto peste, sì. Però abbiamo deciso di concludere il primo volume in parte, indicativamente con la notizia della gravidanza, in modo da poter cominciare il secondo con un po' di criterio e darci, insomma, non esagerare, mettere proprio tutto in un volume. Certo, certo. No, beh, ma già così è molto ricca, hai, esatto, avuto un bel metodo, esatto, nel continuare con il tempo, con così tanta... nel proseguire queste strisce, evolvere, come si fa? Avevi o sicuramente un bel input individuale, tanto da raccontare, ma ci va tanta disciplina anche, penso. Per le strisce sì, perché comunque il fatto è che sei a casa, nel mio caso ero a casa, non avevo un secondo lavoro, quindi ci sono tante distrazioni, allora ti devi dare un po' di disciplina, dei tempi, delle cose da fare. E io ne ho approfittato per migliorare il mio tratto, quindi mi sono data dei tempi, ho cercato di sistemare, poi studiando anche gli altri, ti compri gli albi completi e tutto, guardi più o meno che cosa facevano, che cosa... E allora ho detto, vabbè dai, mettiamo una cronologica, facciamo così, sistemiamo cos'ha. Certo. E quando siamo arrivati a pubblicare avevo comunque le idee abbastanza chiare su come impostarlo, poi certo, sono stata aiutata ovviamente, però... indicativamente per quanto riguarda il libro era praticamente, esatto, pronto. E infatti colpevolmente non ho ancora citato, ma rimediamo ora, in prima pagina c'è questo marchio, questa M gialla, che è il marchio di Manfont. Manfont non è un editore, ma un collettivo di autori, esatto, di autoproduzione. Esatto. E ne abbiamo parlato brevemente a questi microfoni con Manfredi Toraldo, che è la scintilla, l'ispiratore, il leader del gruppo, boh, forse anche leader è una parola sbagliata, perché di per sé, essendo un collettivo, comunque Manfred, un insegnante della Scuola Internazionale di Comics, di sceneggiatura, che ha raccolto intorno a sé tutta questa serie di autori e questo gruppo continua ad allargarsi e tu sei una delle, esatto, delle loro persone comunque che hanno uno staff parte, che aiuta nella realizzazione. Nel mio caso avevo un editor e un responsabile grafico. Okay. Luca Baino come editor, Manuela Mariuzzo come grafico, che mi hanno aiutato ad imbastire, a sistemare, a dare un senso al volume. In Manfont ci sono tutti questi elementi, ci sono degli editor, ci sono degli sceneggiatori in caso di necessità, ci sono i grafici, volendo coloristi per chi non ha a disposizione un colorista, insomma c'è tutto un gruppo che aiuta in caso di necessità. Nel mio caso serviva solo dare un'imbastitura, una sistemata, poi io mi sono colorata tutto, ho fatto tutto, perché comunque, certo, sono pignola di mio, non ce l'avrei fatta probabilmente a farmi colorare le tavole da un altro o cose simili, per cui alla fine comunque mi aiutavano, perché mi serviva qualcuno che desse ordine. Luca mi ha aiutato anche un pochino nel sistemare alcune cose con la cronologia, insomma è stato, con Manuela abbiamo sistemato questa cosa del loghetto alla francese in alto, abbiamo studiato in modo che fosse bilanciato con i pupazzini e la parte grafica, la copertina, perché comunque bisogna impaginare e sistemare la copertina. In questo anche Manfredi mi ha dato una mano a mettere in ordine le idee, quantomeno, sì, perché se tu sei un autore che deve pubblicare un libro, comunque ti serve qualcuno che ti dica sì, però devi fare così, così e cos'ha perché renda, perché tu hai 1500 idee e vorresti farle convergere tutte e serve comunque un minimo di controllo. Un filtro. Esatto. Un filtro tra te, autore, e chi leggerà il libro. E anche mi hanno anche gestito bene i tempi, devo essere sincera, di solito io sono lenta, quindi in questo caso invece sono risultata puntuale, ero molto felice, perché è vero, ho fatto un po' fatica, perché comunque avendo anche una famiglia e tutto quanto, ho dovuto concentrare il tutto e colorare tutto insieme, proprio staccanovismo puro, e poi sistemare, però i tempi sono stati ben gestiti e in questo sono stata aiutata da Manfont, per cui mi sono trovata molto molto bene. No, ma è interessante perché comunque il mercato sta cambiando, vengono a mancare gli editori, o quantomeno ci sono più aspiranti autori che hanno bisogno di un supporto reciproco. È un'esperienza, secondo me, quella dei collettivi, principalmente, che nasce a Bologna, non vorrei sbagliare, però di per sé la scena più vivace in tutto ciò che riguarda le autoproduzioni e dintorni è quella bolognese. E a Torino mancava qualcosa del genere e adesso c'è ed è molto presente su internet. Ci sono, avete portato, Manfont ha portato parecchi progetti a Lucca. Sì, erano più di, credo, 13, se non ricordo male, ma comunque erano veramente tanti, esatto. E beh, ma c'erano anche gli altri, bene o male. Il pacchetto di quelli nuovi aveva un determinato numero, poi c'erano gli altri. Per cui, e poi ci sono comunque le vecchie, io le chiamo vecchie glorie, ma sono tutt'altro che vecchi. Cioè, c'era il classico Norbi, che è da una vita che c'è, che funziona. E quest'anno c'è stato Magnifico in Manfont, che sta funzionando veramente bene, d'altronde è molto ben fatto, per cui tutto bel materiale, per cui è anche piacevole far parte di questo gruppo, perché non è che ti autoproduci e sono disegni un po' così e dici vabbè, mi autoproduco, però speriamo che vada. È tutto ben fatto, è tutto professionale, sono tutti ottimi autori, quindi sono dei bei prodotti da comprare, e allora ti fa piacere anche far parte di un gruppo di gente così brava, e quindi meglio. E com'è stata Lucca? Ti ho già chiesto allo stand il confronto con i lettori, però hai fatto tutti e quattro i giorni? Sì, tutti e quattro. Quanto è autodistruttiva la presenza allo stand? Allora, è il primo anno che non vedo niente a Lucca. Ok. Sono tornata... Il fatto che diventa sempre più difficile girarla a Lucca Comics and Games, soprattutto il sabato e la domenica. Quindi quasi sempre quando qualcuno va per una ragione specifica vede quello. Esatto, io di solito mi seguivo, sai, conferenze, andavo a vedere questo, quello. Per cui, a parte il concerto della Davena la sera, però avevo finito di lavorare, le altre cose non sono riuscita praticamente a vedere nulla. Sono tornata a casa, ho letto quali erano gli autori che mi sono persa e ho detto vabbè, però volevo andarci. Sì. Ma è quello che succede ormai. Lucca Comics and Games, non so i numeri di quest'anno, ma l'anno scorso erano 400.000 persone in una città che normalmente ne fa, penso 30.000. È oggettivamente molto molto grande come manifestazione, la più importante fiera di fumetti d'Italia, ma anche sul livello internazionale se la gioca con tante altre. E per fare in modo che non diventi vittima del suo successo sta cambiando, e quest'anno la particolarità è stata che giovedì e venerdì c'era tanta gente, il giovedì sì. e venerdì. Sì, è stato stranissimo, cioè di solito tu giri il giovedì e venerdì tranquillo, poi il sabato è il delirio, esatto. La domenica più o meno, invece questa volta il delirio è stato il giovedì, il venerdì ancora bello pieno, poi il sabato in proporzione è stato tranquillo rispetto ad altri giorni, per cui era strano. Era oggettivamente strano. Che effetto fa Lucca che gira attorno a te invece che tu che giri per Lucca? Era particolare, cioè, tra l'altro è buffo perché tu vedi tutti questi cosplayers, no? Okay. E io ho fatto la foto ad una famiglia di cosplayers mentre stavo lavorando, perché mi sono passati davanti, erano bellissimi, era una famiglia di Ghostbusters col cane che aveva il piumino verde per fare Slimer. Per cui ho fatto togliere i lettori, ho chiesto gentilmente se potevano spostarsi un attimo, ho fotografato la famiglia di cosplayers e poi ho ricominciato a fare le dediche perché erano troppo belli e me li stavo perdendo. Ok, ma vogliamo spezzare una lancia a favore dei cosplayer, perché c'è sempre questa specie di odio-amore dei fumettisti nei confronti dei cosplayer. Sono una parte della, in Italia per lo più, perché se vai ad altre fiere di settore, ad Angoulême per un fumettista è l'ideale, arrivi lì, respiri aria di fumetto, e io ero felice gli anni che sono andata. Come dicevamo, i mercati sono completamente diversi, infatti sulle riviste di fumetto francese trovi gente che si lamenta della fiera di basso livello. Che cos'è una fiera di basso livello per un autore francese? Una fiera della Dedicasse, in cui ci sono solo autori che fanno disegni. Questa noi che oramai in certe fiere, non diciamo quali, comincia a comparire i distributori di noccioline e tutto, tranne che neanche più i cosplayer, giusto una mezza carnevalata, pensare che la fiera francese di basso livello sia quella della Dedicasse, beati loro, ok? Davvero, molta invidia. E hai fatto molte dedicasse sul volume, dedicasse sono i disegni sul volume. Sì, difatti ho scoperto come non ero abituata a fare dediche sui volumi, quindi pian piano andando avanti ho cominciato a divertirmi, perché all'inizio sei rigido, e poi ho iniziato ad andare di pantone, poi mi sono lanciata di pennarellino, per cui è stato all'inizio un po' così, poi E qui ti riportiamo anche un commento fuori onda di Alessandro, che non può parlare della regia, che quando sono entrato e tu non c'eri mi ha detto: ah, ma l'ha fatto qua, l'ha disegnato sulla pagina. Sì, quindi ti fa anche un complimento, colpisce questa cosa che è un po' la chiave, è qualcosa che per noi del mondo del fumetto è normale, però che ogni volume diventi un pezzo unico perché ha il disegno dell'autore. Beh, qualcosa di molto bello. Sì, è la cosa che forse quando compri e vuoi tenerti a casa un volume è la cosa che piace di più. Esatto, esatto. Quindi tu come lettrice hai tanti volumi con disegni? Io ho un Don Rosa disegnato che terrò per sempre, che non mollerò più. Ok, ok. So anche quando Don Rosa, direi. Esatto. Credo di anche non c'ero io a fargli d'assistente perché c'era la mia amica Barbara, però è stato Torino Comics 2011, direi. Credo 2010 di sì. Scott McCloud, 2011 Don Rosa. E lui è lì, bel personaggio. Tranquillo. Quello è bello in alto, che non venga toccato da nessun bambino, perché esatto. Potrebbero strapparmi Don Rosa e non va bene. Esatto. Per cui, però fece ne ho. Sfracelli. Don Rosa è l'autore americano vivente di Zio Paperone, poi in realtà c'è la tradizione di Carl Barks eccetera, ma Barks non c'è più, quindi Don Rosa è l'autore che associamo a Zio Paperone. Esatto. E quindi non si può non avere, insomma, esatto, quando te lo trovi davanti, poi quante volte ti può capitare. Esatto. Per cui. E hai anche un Garnido, okay. E poi che cos'ho? Vabbè, ho un Frezzato, ma è stato mio insegnante nel 98, quindi bene o male okay. Mi conosce quantomeno. Ok, ok. Poi Frezza è il re delle dediche fatte sul posto. Sì, esatto. Con le dita, magari. Lì era ancora matita. Quello è fatto no, a matita. No, quello fortunatamente ne ho molti a pennarellino, perché sono quelli che mi piacciono di più suoi. Okay, fortunatamente okay. Per quello. Per cui ho ancora i Maser, i primi Maser autografati con le dediche a pennarellino, che sono un qualcosa che tengo, custodisco gelosamente. Ok, ok. Quindi c'è anche la parte di lettrice e di collezionista, sì. Che tieni, immagino, ben lontana da tua figlia. Sì, sì, sì. Anche se è diventata una mia lettrice, adesso lei legge tutte le strisce, se le fa leggere, okay. E poi ridere, piacciono, commenta. Dice: da grande voglio fare quello che fai tu e voglio fare la colorista, perché ha deciso che la ha già capito è un anche la segmentazione lavoro. Del mercato. Esatto. Wow, fantastico. Magari parliamo ancora della suddivisione del lavoro dopo la terza canzone, che abbiamo pescato a caso perché avevamo in testa un pezzo. Tutti e due dicevamo Silence, Silence, Silence, Silence. No, in realtà Simon & Garfunkel, che è sempre stupenda. Noi volevamo mettere un altro pezzo, ci siamo sbagliati. Quando si sbaglia e si mette Simon & Garfunkel, va bene. The Sound of Silence. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo. They made sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement halls whispered. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E l'ultimo quarto di programma in genere è dedicato alla totale improvvisazione. Due settimane fa con Ivan Fabio Perna, attore, abbiamo sbraccato e abbiamo cominciato a parlare di Star Wars. Però mi pari tiepidina tu su Star Wars, giusto? Non sono così, cioè non lo conosco così bene da poterne parlare senza farmi uccidere dagli estimatori. Boh, più, non più c'è problema, no, qui siamo laici, basta. I troll sono talebani, noi siamo laici. Poi tanto il 16 dicembre può succedere qualsiasi cosa, J.J. Abrams può distruggerla completamente Star Wars, quindi però a quel dai, punto lì. Nel mio fumetto un alter ego di Yoda l'ho messo, quindi bene o male qualcosina. Quindi ok. E, c'è un percorso completamente diverso, chiacchieravamo fuori onda, cerchiamo di riepilogare la parte interessante per gli ascoltatori, e che tu non ti sei mai approcciata, cioè avendo studiato la scuola di comics avresti anche la tecnica, però hai scelto un percorso più autoriale, più individuale di quello che sarebbe stato un percorso da colorista o da inquadratrice o da disegnatrice di fumetti per conto terzi in una situazione più, non vorrei dire professionale, perché professionale l'autore, anche l'autore unico che fa le cose proprie è professionale, più strutturata, più all'interno di un contesto come potrebbe essere la Disney o la Bonelli. È una scelta su cui hai riflettuto, non la escludi per il futuro poter magari... Non la escludo, Bonelli non è nelle mie corde, soprattutto okay. A livello di testi non sarei preparata, a livello grafico dovrei studiarlo molto, però l'ho già fatto all'esame, ho portato comunque qualcosa di un pochino più, ho dovuto proporre tre cose, bene o male erano piaciute. All'esame della scuola internazionale di comics bisogna presentare sia un progetto francese, uno americano, esatto, uno italiano. E l'americano okay. Era molto più vicino a Bonelli rispetto al resto, perché comunque l'autore l'ho portato a Cresinena ed sì. Era fatta e finita. Per il francese avevo un altro prodotto che comunque ho studiato e che però è totalmente francese, il classico okay. Ambientato nel mondo delle favole, per cui erano tavole autoconclusive sui personaggi delle favole. Okay. E americano, bene o male, poteva con un sommo sforzo, però è una cosa che avrei dovuto cambiare completamente. E rischiavo di cambiare anche il resto, perché comunque quando fai una cosa le infiltrazioni arrivano. Esatto. Soprattutto quando sei un autore, comunque scrivi i testi. E io mi lascio molto ispirare, ad esempio le tavole, le strisce settimanali ultimamente sono almeno 3 settimane che le scrivo al martedì, escono al giovedì, o piuttosto che ce le scrivi in settimana. Ok. Se sto leggendo altro, e poi mi viene quello. Per cui se mi concentro certo. Tutto su un Disney, rischio di trasformare. Quindi dovendo scegliere, ho cominciato a concentrandomi solo sul mio prodotto. Mm-hmm. Poi mi piacciono, cioè Disney soprattutto mi piace, quindi non escluderei mai di poter provare. Perché comunque, a parte che è un tratto tondo che io amo molto, mi riesce, mi piace. Gli schizzi li ho, li faccio, non è che... No, infatti, per cui te lo chiedo anche perché sul tuo Facebook si trova qualcosa ogni tanto di... Sì, ogni tanto viro, faccio un po' di Disney così per pura passione, per il mio amore per Paperino, che è un qualcosa che c'è da una vita, più per i personaggi che per l'insieme di storie e quant'altro, okay. Cioè, li amo veramente singolarmente, poi ho amato Double Duck in tutti i modi, anche perché è cambiato tanto ed era molto più vicino al mio modo di leggere fumetto, quindi anche a livello okay. Di tavole era veramente bello, per cui non pick up? Meno, in proporzione meno. Ah, okay. Mi piace molto, però ha virato tanto, cioè Paperino lì non c'è più, cioè, mentre in Double Duck c'è ancora e c'è questa dualità del personaggio che può diventare un agente, no? Cioè oddio, in effetti anche lo stesso pick up, una delle chiavi di pick up è questo piccolo papero un po' sfigato che però ha l'eroismo. C'era un bel commento, pick up sta riuscendo adesso storie serializzate su Topolino. È una cosa molto particolare perché in realtà pick up era qualcosa di completamente diverso, erano storie formato comic book, hanno esordito autori come Mottura, come Lavoradori, come che avevano tutto un segno disneyano ma più ricco, più marveliano. Infatti, esatto, erano veramente diversi i pick up agli inizi di quando li leggevo, per cui no, non lo sentirei, mi okay. Piace, però se dovessi non scegliere, non ci hai trovato quello che esatto, devi sempre cercare un qualcosa di te, un qualcosa del certo. Mi piace, l'ho letto tutto, mi è piaciuto molto, però se dovessi disegnarlo probabilmente farei più fatica rispetto ad un qualcosa di più comico e più vicino certo. ai classici modelli del Topolino piuttosto che del Double Duck, che è ben inserito comunque. Ma è anche terapeutico trovare l'ironia e poi trasformarla in una striscia in quello sì, che succede. Sì, risparmi un sacco in psicanalisi, cioè è un qualcosa di pazzesco, lo metti su carta, lo cambi un po' e tu sei a posto e boh. Per cui non devo neanche stirare, faccio la montagna, la scavo, inserisco il personaggio e faccio finta di niente. Per cui ogni tanto succede che mi dimentico e mi ritrovo davvero una montagna e quindi mi chiedo cosa farebbe Nena e come posso levarmi dall'impiccio e non ci riesco mai, mi tocca stirare veramente. La cruda realtà è che non è così. Vabbè, per cui se scavassi e trovassi uno dei nani in fondo al tunnel, come succede nella striscia di questa settimana, forse sarebbe un po' più problematico. Vedrai questa settimana succederà ancora scriverò. Di peggio. Sì, sì. Non è solo questo primo incontro, ce n'è più di uno dei nani. Sì, dei nani sì, adesso vedo, ma sono cose che nascono molto ultimamente, sono molto fresche, sono cose nuove. Okay. Per cui sì, mi sono piaciuti, i nani mi sono piaciuti, quindi li ho tenuti, hanno passato il provino e li terrò almeno ancora per una. Se qualcuno si fosse incuriosito e non ti conoscesse, le tue strisce le troviamo su Serena Romeo, no, Crazy Nena, c'è la pagina. Allora c'è serenaromeo.blogspot.com okay. E su Facebook c'è Crazy Nena, volendo okay. Si trova tranquillamente la pagina. Così abbiamo le coordinate spazio-temporali, è già stata pubblicata sulla pagina di Facebook di Sono Solo Nuvolette la striscia di questa settimana, poi vedremo come proseguirà. Come si evolverà. Spero di far ridere ancora, insomma, per il momento funziona. Poi e comunque hai anche un discreto numero di mi piace sia su Crazy Nena che sulla pagina sì, personale. Sì, sì, ma la cosa bella è che ho alcuni lettori affezionati che ci sono dall'inizio comunque e che continuano a seguirmi con passione, ogni tanto commentano e quindi ti rendi conto che c'è gente che comunque apprezza e questo ti fa andare avanti con più volontà, con più impegno. E cedono nel dar per scontato che Nena sia tu? All'inizio sì, adesso non lo so, non hanno più detto nulla, ma okay. Si sentono molto vicine alle tavole con la bilancia scortese, che è una bilancia crudele che fa battutacce orribili sulla povera protagonista e se prende un grammo è la fine, per cui non la paragona sempre a qualunque cosa è drammatico, però credo che questo rapporto conflittuale con la bilancia sia un qualcosa che accomuna molte donne, quindi molte donne vengono a dirmi sì, sono proprio io, la mia bilancia fa proprio così. Quindi... Ma infatti credo che di per sé un autore coglie veramente l'insegno se non parla solo, anche quando parla in maniera autobiografica in realtà parla di molte più persone. Eh sì, perché sono poi le problematiche che abbiamo tutti, poi possiamo inventarci su Facebook delle personalità di supereroi, ma alla fine le nostre paure sono sempre quelle, le nostre psicosi, i nostri fastidi quotidiani sono sempre quelli poi alla fine. E quindi se li metti sul ridere, non è meglio ammettere, ridere dei propri limiti che invece fingersi. Ma io sono abituata così, alcuni molto spesso mi danno la pacca e mi dicono non fare così e non capiscono che io in realtà rido insieme a me, non necessariamente di me. Però comunque trovo che sia meglio, mi piace di più che non far finta di essere qualcun altro e poi però prima o poi ti ritrovi davanti alla resa dei conti a dimostrare che non sei quello e sei un altro, quindi preferisco farti vedere che ci rido sopra ma che ho questi difetti. Bon, primo non ti aspetti niente, quindi non è che abbassi l'aspettativa. Abbasso le aspettative, le rado al suolo, così sono un po' più tranquilla e poi ci rido su, meglio riderci su che altro. Beh, poi di per sé tutto quell'umorismo grottesco è molto italiano, sia delle storie di Paperino disneyane, degli autori storici come Guido Martina, Giovan Battista Carpi, tutta Romano Scarpa, eccetera, che nell'Alan Forti di Magnus e Bunker, tutto questo rigirare in grottesco situazioni serie nel cinema americano, cioè Alan Forti di per sé nasce come parodia degli agenti segreti. Sì, ma secondo me è la cosa migliore, la chiave migliore di lettura della vita, quantomeno. E in questo poi manca, a noi italiani manca l'epica, ma forse abbiamo la capacità di rendere grottesco molte, di cogliere il lato grottesco, riderci su e forse anche autocurarci, che ne dici? Anche un sì, io lo trovo utile, devo dire, mi curo abbastanza bene, ecco, okay. Così. Poi c'è sempre il cioccolato, nel dubbio non c'è dirlo anche a nessuno, il cioccolato. Ma c'è sempre il cioccolato. Vabbè. Il programma volge verso il termine, abbiamo messo delle canzoni a caso, però erano carine lo stesso. Abbiamo parlato di Crazy Nena, coraggio fatti stirare. C'è ancora qualcosa che vuoi tu, dovendo presentare, tu dici che come autrice non ti sai vendere, però dovresti presentare a qualcuno questo volume, perché un lettore, digli ad Alessandro che è un giovine e qui fa finta di niente, perché può piacere a lui questo fumetto? Perché fa ridere in modo idiota, quindi bene o male ti rilassi e non ci pensi, non devi andarti a scervellare sulle cose. È la vita, ma presa veramente senza serietà, in modo okay. da... Ci sono i problemi, ma chi se ne frega, li risolviamo così in modo totalmente folle, ma a volte senza senso, perché ci sono delle scene che non hanno assolutamente senso. Nena che non riesce a stirare e schiaccia un pulsante ed esce uno Jedi della stiratura da un libro e ti spiega che cosa devi fare, poi alla fine non ti ha insegnato assolutamente nulla. Per cui ci sono queste cose, il problema non lo risolvi alla fine, ma almeno c'hai riso, per esatto. cui... La vita va avanti lo stesso e non la devi prendere sul serio. Qui esatto, è... come diceva Mark Twain, la vita è troppo breve per essere... Tanto non se ne esce vivi. Ci sono esatto. varie varianti di questa frase e più o meno il senso è sempre lo stesso. In fondo, ridiamoci su. Grazie Serena Romeo per essere stata qui con noi. Grazie a te, grazie a tutti. È stata una bella chiacchierata, abbiamo veleggiato tra umorismo, segno, fumetto francese, un po' di tutto. Chiudiamo con un pezzo di Carmen Consoli, non mi ricordo, è capace... Ti rendi conto che io cerco di fare una playlist sempre diversa e sto già perdendo la memoria, quindi potrei anche averlo già messo questo pezzo, eh? No, eppure lo sapevo il titolo, stavo monologando su una... Sì, lo so Alessandro, in bianco e nero, di Carmen Consoli. Grazie Alessandro per avermi ricordato il pezzo. In realtà stavo sbanatando per altre ragioni, dire che non mi ricordo se l'ho già messa. Tu ti ricordi se l'ho già messa? No. Non l'ho già messa, quindi ci fidiamo di Alessandro, Carmen Consoli, e sono solo novelette. Vi do appuntamento alla prossima puntata.